telefono con una compagna di Milano, ciao, della consultoria autogestita. Ciao. Allora, a che punto è la piazza a Milano? Allora, noi abbiamo appena smontato gazebo impianto, però appunto nel momento di andare via, quando erano rimaste in poche, la Digos e la polizia ci vuole identificare perché abbiamo esposto lo striscione che a Milano non si può mettere, ovvero nei CIE, in galera e in questura, i carabinieri e la polizia stuprano e quindi se non consegniamo i documenti ci portano in questura. Adesso sono arrivati un po' di compagni e compagni anche in bici e insomma ci hanno messo i mezzi davanti al nostro per non farci uscire, e comunque insomma c'è un po' di casino. Invece nel pomeriggio com'è andata? Nel pomeriggio è andata bene perché si è fermata tanta gente, noi avevamo parecchi materiali con diverse iniziative anche future e quindi c'è stato un buon passaggio, e quello che insomma abbiamo colto è che già avevamo colto il 13 febbraio, pur non riconoscendoci diciamo nelle parole dove disse non ora quando, avevamo percepito che tante donne insomma c'era voglia di dire la propria, che c'era molto dissenso, molta incazzatura, infatti quelle che non condividevano quelle parole d'ordine si sono presentate poi al nostro banchetto, quindi direi che tutto sommato è andata bene. Ho capito, e quindi adesso state in questa situazione fronteggiandovi con le forze dell'ordine, il disordine? Sì, adesso chiaramente si sta discutendo perché non si vogliono dare documenti, adesso saremo qui in una trentina di persone e vediamo come va a finire. Chiaramente non vogliamo dare i documenti e si sa benissimo che stanno creando questa situazione perché è stato esposto uno striscione che dice quello che non vogliono sentirsi dire, insomma. E poi fra l'altro questa cosa già in precedenza, il esatto, famoso striscione, infatti, la polizia stupra nei CI era stato, certo, qua, strappato. Infatti hanno detto cos'è, se non tirate sullo striscione cosa volete, che si ripeta il 25 novembre, noi abbiamo detto vabbè, fate quello che volete, noi non lo togliamo, insomma. Quindi l'avete tenuto a lungo? Sì, no, abbiamo tenuto tutto il presidio e basta. Senti, magari fra un po' vi facciamo una telefonata per sapere come ne siete uscite, speriamo assolutamente bene senza dover dare nessun documento. Ok, va bene. Ok, ciao. Grazie allora. Ciao.